10.53 sulle libere frequenze di Blackout, continua la mattinata informativa, come ogni martedì torniamo in onda con Parole Ribelli, la trasmissione del collettivo universitario autonomo. Un buongiorno a tutti e tutte voi che siete in ascolto, da Francesca e da Eddie. Vi ricordiamo come sempre i contatti per scriverci nel corso della trasmissione, quindi 346-667-3263 è il numero degli sms e 011-249-5669 il telefono fisso. Ovviamente potete sempre ascoltare Radio Blackout sia sulle frequenze 105.250 se siete a Torino e dintorni, o in streaming sia dal sito radioblackout.org che da Radio InfoOut. Vi lasciamo in compagnia della nostra sigla prima di iniziare con la puntata. Sette sui 105.250, le libere frequenze di Radio Blackout. Comincia una nuova puntata di Parole Ribelli. Andremo a parlare ovviamente del 12 aprile, del post 12, un po' di che cosa è stata questo appuntamento d'assedio, questo primo momento di contestazione di massa al governo Renzi. Sì, ovviamente andremo a fare alcune valutazioni, ma soprattutto poi a guardare avanti, non solo alla luce del fatto che quattro compagni sono tuttora detenuti da sabato, quindi ci metteremo anche in collegamento con i compagni di Cosenza, da cui appunto proviene uno degli arrestati, per farci anche un po' raccontare come sono andati gli appuntamenti di solidarietà ieri, ma soprattutto guardando avanti a quelli che saranno i prossimi appuntamenti con la giornata del 1° maggio e soprattutto per quanto riguarda il nostro territorio, con la giornata poi del vertice europeo a luglio, che insomma sarà appunto la prossima data su cui iniziare a lavorare fin da subito. Quindi insomma un'agenda fitta, ci preme quindi provare un po' a condividere delle valutazioni sulla giornata del 12, guardando però ovviamente avanti. Adesso vi lasciamo un po' di musica, poi prepariamo le prime dirette. Buon ascolto. E intanto segnaliamo un cisti: richieste di documenti e perquisizioni al Valentino, operazione coordinata di carabinieri e polizia in borghese e in divisa ai danni di chi gode del sole primaverile nel Pratone. Allora, conferma la propria infamità nel mondo delle forze dell'ordine, perché andare a rompere le palle a chi sta prendendo il sole al Valentino ci vuole veramente coraggio. Però rivendichiamo il diritto a prenderci il sole in tranquillità senza essere disturbati dalla polizia al Valentino. E niente, vi lasciamo un po' di musica, intanto prepariamo le dirette. Children were running, you were running down. allora 11.06, prima di iniziare con gli approfondimenti, vogliamo ricordare i riferimenti per scrivere ai quattro compagni che sono stati arrestati sabato. Attualmente sono tutti detenuti a Regina Coeli, quindi l'indirizzo è casa circondariale Regina Coeli, via della Lungara 2900 165 Roma. I nomi dei compagni sono Lorenzo Marabini, Matteo Pompea, Ugo Esposito e Simon Canca. Comunque, insomma, sui vari siti di movimento, sui social network stanno girando tutti i contatti, quindi davvero invitiamo a scriverli, a inondarli di telegrammi. Sappiamo quanto la solidarietà sia importante in queste fasi, in attesa dell'udienza di domattina, quando verranno appunto interrogati e si andrà a decidere sulla loro posizione, quindi se scarcerarli o meno. Facciamogli sentire tutta la nostra vicinanza. E anzi, dedichiamo questo pezzo che segue proprio a loro. Casser un pour gagner trois cacahuètes, galère pour remplir la marmite avec leurs miettes, contre la mitraille, vie pour l'avenir d'un marmaille, Sky les miches, et ça échauffe en rêvant de maille, mec c'est la serbe, et tout le monde s'en bat les steaks, chacun sa petite popote, si j'ai tort tu m'arrêtes, ça me fout la gerbe, alors je te donne ma solution, c'est tout un système qui mérite un coup de peupon, si on changeait la donne, si on renversait la vapeur, si on cassait la baraque, et yo dis-moi que t'as pas peur, faut se mettre à l'ouvrage, y'a du pain sur la planche, si on se met à la tâche, si on remontait nos manches, nous on rêve de changement, de révolte et du grand soir, rejoins la lutte camarade si tu crois en la victoire, je te propose un deal, t'inquiète j'ai pas de carotte, je te fais la courte échelle et tu m'envoies la corde, unis et solidaires, derrière la même bannière, la résistance est en marche, on y croit dur comme fer, quand faut y aller, rendez-vous en enfer, et sur ce, salutations révolutionnaires, faut y aller, unis et solidaires, à Kingston, résister à Pinochet au Chili, rencontrer les bouchers de Washington, taper la misère dans un douar, qui voit sa terre tramée sous un faux barrage, et je ne sais quoi sous prétexte qu'Allahu Akbar, pour sentir le poids dans le dos à Islamabad, j'aurais pu voir le jour au Tibet libre, ou mourir de faim au Bangladesh, être trop fidèle dans les Caraïbes, dans mon héros de Bagdad ou de Marrakech. Enfermé dans les géants de Salazar, Thomas Sankara au Burkina Faso, vivre les révolutions de Simon Bolivar, caché au fin fond des montagnes tchétchènes, pendant que la corne de l'Afrique flambe, étudiant sur la place Tiananmen, étudiant chilien en ce maudit jour de septembre, avec Massoud à Kaboul, face aux soviétiques et puis aux talibans, oublié coréen en grève à Séoul, défendre les droits de la femme à Téhéran, passer ma vie dans les apartheid, de Cisjordanie ou de Johannesburg, peut-être Trima, puis même l'Oued, et la manie et danser pour vous. Trop d'étrangers disent qu'on peut pas se mélanger, on peut pas laisser passer assez à la guerre comme à la guerre sensée, à la socialiste aux insensés, rassembler rien pourra nous stopper. Quand faut y aller, faut y aller. J'aimerais tellement pouvoir me taire, n'avoir rien à dire sur cette terre. Que les hommes entre soi pissent, qu'ils s'aiment et s'entraident comme des frères. De New York à Bagdad, de Damas à Jérusalem. Que la terre mère nourricière mange à sa faim, sortant fin de cet enfer. J'aimerais tellement pouvoir rester seul, caché, Livre d'amour, de date et de fraîche. Mais ce que je vois, ce que je sais, en moi je peux pas le garder. Me taire si tu savais combien des fois au fond de moi j'aimerais révolter. Je passerai des journées à pleurer en regardant à la télé ce gosse paru minuit chillé. À quoi ça me servirait si je me taisais juste après, disant que de toute façon y'a ni personne ne pourra rien y changer. Combien que jamais je changerai, je garderai toujours en moi la force, l'envie, la rage, la volonté. Tant qu'il me restera un souffle de vie sur cette terre, compte pas sur moi pour me taire. Sur ce, salutations révolutionnaires. Il faut y aller, faut y aller, faut y aller. Unis et solidaires, unis solidaires derrière la même bannière. Calme, faut y aller, faut y aller. Lève le poing, refuse le bon en arrière. Calme, faut y aller, faut y aller. Ne pas baisser les bras, ne pas baisser les bras face à toute cette misère. Calme, faut y aller, faut y aller. Rendez-vous à l'enfer, salutations révolutionnaires. Bene, abbiamo ascoltato MAP, Salutation Révolutionnaire, e adesso rispondiamo a una richiesta. Questo era Arrighi Mixtape. Non ho mai chiesto niente a parte l'odio. È tutto ciò che serve, il respiro di chi ha poco. Non ho mai chiesto niente a Dio da quando ho percepito che ogni mia preghiera era solo un soliloquio. Sto freddo sulle spalle, non promette bene. Tutta sta merda muta lupi in iene. Sai quanti ne ho visti? Carne cruda in vendita per strada. Crescono coi sogni e crepano con gli incubi, chiusi in casa. Giura di non perderti tra falsi dei, guardali, ognuno in fondo è sceso a un compromesso. Vada a non mostrarti per ciò che non sei, non tanto per gli altri. Rischi di convincere te stesso, siamo pazzi, più dei pazzi. Cani in strada senza manco più traguardi, sono pazzi e pazzi, pazzi, più dei pazzi. Così a fondo che sinceri sono diversamente bugiardi. Cambi, nei miei panni sei costretto, quando l'anima è un vestito che sta stretto, devi spogliarti. Metti la via apposta in un cassetto, su un foglio e fa lo stesso, basta che la salvi. Dimmi che sapore c'ha, stare nei miei ieri e fantasmi dell'aldilà. Quando i versi fanno pam pam pam pam pam pam pam pam. Fanno pam pam pam pam pam pam pam pam. Dimmi che sapore c'ha, stare nei miei ieri e fantasmi dell'aldilà. Quando i versi fanno pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam. Neffa dove stai, devo parlarti, devo chiederti se il sole arriva o resti a congelarti, cazzo. Sto freddo qua non passa, io non passo più una notte senza riscaldarmi con un po' di ghiaccio e check. Vecchie facce in testa come foto, fosse un videogioco, tornerebbe starle solo per lo sfogo. Back to chapter one, giusto per vedervi là, sputare sangue come ho fatto per merito vostro. Ah, frasco, fottuto amico mio, manco hai detto addio. Sei scomparso come ha fatto Dio, come il padre che mi ha messo al mondo. Bastardo, dove cazzo stavi quando il buco in pancia si faceva largo? Quante stronze hanno i pezzi miei, tutto ciò che ho fatto non so manco se lo rifarei. Ho dato un braccio quando mi hai chiesto di più. Quando dai una mano chiediti se vuole alzarsi o se tirarti giù. Dimmi che sapore c'ha stare nei miei ieri e fantasmi dell'aldilà. Quando i versi fanno pam pam pam pam pam pam pam pam. Fanno pam pam pam pam pam pam pam pam. Dimmi che sapore c'ha stare nei miei ieri e fantasmi dell'aldilà. Quando i versi fanno pam pam pam pam pam pam pam pam. Pam pam pam pam pam pam pam pam. Give me closure. now things that hurt me. Give me a crowd, now still observe me. Give me the mic, so they hurt me. Give me a driver, just run me about when a day's too short. My heart falls out of his fortress. Give me them trumpets, give me them torches burning. Give me the sun. Give me cautious, gurning faces and them lessons I can't learn. I give it all what I'm giving. I give it all, I know that I'm living. I give heart, I give love. I give blood, cause what I love you are. Give what you get, I live with regret. I'll give it all night, don't think too long. Just give me a smile, we can kiss the world. I will put a love you on. E 18 sulle libere frequenze di Radio Blackout. Ricordiamo i contatti per scriverci: 346-66-73-263 al cellulare e 011-2495-669 al fisso. Bene, cominciamo con gli approfondimenti. Come abbiamo detto in apertura di puntata, parleremo molto di questo 12 aprile che ci richiede delle valutazioni, perché come del resto fu il 19 ottobre, lo consideriamo la tappa di un percorso che avrà parecchie scadenze fino all'11 di luglio qui a Torino, e siamo in collegamento infatti con Michele, compagno di De Gage. Michele, ci senti? Sì, ciao a tutti e a tutte. Allora Michele, tu appunto hai vissuto questo 12 aprile da studente, quale sei, dentro anche al percorso delle occupazioni degli studentati, quindi guidavi diciamo al megafono il corteo, che lo spezzone che si è mosso dalla Sapienza verso Porta Pia, e proprio da lì poi sei finito in brutte mani. Ma ti lascio la parola, raccontaci un po' tu e poi magari andiamo avanti facendo un paio di valutazioni appunto su questa giornata. Sì, questo 12 aprile appunto è partito dalle lotte e dai territori, come insomma ci rivendichiamo sempre quando parliamo di questo percorso, che è partito dal 19 e che appunto teniamo a specificare che riesce ad esistere, prende forma e prova a parlare insomma con tutto il paese, partendo da delle lotte concrete, da dei territori attraversati insomma da queste lotte. Quindi noi come studenti universitari, tra l'altro appunto in rete con una serie di collettivi, tra cui il vostro, in tutta Italia, abbiamo anche lanciato una settimana di mobilitazione in corrispondenza del 12, per arrivare appunto a questo concentramento universitario che è partito dalla Sapienza con diverse centinaia di studenti da tutta Italia, in particolare da Roma, e appunto con uno striscione dalle metropoli all'università, sediamo austerità e precarietà, e andare a raggiungere e a confluire appunto aggiungendo contenuti, lotte, istanze alla piazza del 12, una piazza appunto che, come abbiamo già detto tante volte, si andava a scagliare oltre che contro le politiche sulla casa, che sicuramente vanno a toccare i giovani, non a caso lunedì scorso e lunedì della settimana dell'occupazione, sì, del 12 aprile c'è stato a Roma proprio un tentativo di un'occupazione abitativa studentesca di uno studentato di Godò che è stato sgomberato nella settimana in cui a Roma appunto le forze dell'ordine sono espresse in maniera molto forte. E appunto, ma oltre alla tematica della casa c'era questa tematica molto importante che avevamo voluto, insomma, che dava molta forza secondo noi a questa giornata di mobilitazione, che era quella del lavoro, della precarietà, quindi legata al nuovo decreto che sta provando a far passare il governo Renzi e che ha presentato, che è quello del Jobs Act, e quindi siamo andati in quella piazza provando come studenti e studentesse a portare tutti questi contenuti, questo portato a collegarci con una composizione meticcia delle lotte degli occupanti, dei facchini, dei lavoratori, con cui appunto abbiamo stato invitato un corteo di decine di migliaia di persone che hanno comunque, a nostra opinione, è stato un passaggio molto importante e che dimostra la capacità di un movimento di darsi continuità e di darsi anche delle scadenze autonome di mobilitazione in cui prendere forza e in cui insomma riuscire ad esprimere una serie di contenuti necessari e utili in questo momento, in questo paese, per coinvolgere sempre più persone. E poi sì, sicuramente il corteo è andato avanti e portando appunto l'assedio a quei luoghi dove viene deciso sulle nostre vite, nei ministeri del governo Renzi, prima con un assedio più simbolico al Ministero dell'Economia, fino ad arrivare al Ministero del Lavoro, dove appunto penso che in tanti che stanno ascoltando hanno visto i video, le foto, hanno partecipato in prima persona all'assedio, che sicuramente appunto è stato molto significativo dal punto di vista politico, è riuscito a mettere i primi passi del tentativo di portare assedi popolari e meticci nei luoghi, insomma, che più ci interessano e che vogliamo andare a contestare, però sicuramente ha bisogno, insomma, di crescere anche a livello delle pratiche di autodifesa dei cortei e della capacità appunto di non farsi travolgere dalle forze dell'ordine. In quella situazione io sono stato travolto e sono stato fra i fermati del corteo, per fortuna, insomma, anche dato quello che stavo facendo quando ci hanno fermato, sono stato rilasciato subito, a differenza, insomma, alla mezzanotte del giorno stesso, a differenza di altri quattro ragazzi che sono tuttora a Regina Coeli, a cui mando un saluto e un abbraccio, e ieri proprio alle 7 di sera siamo andati a fargli un saluto dal Gianicolo, che va appunto sul carcere di Regina Coeli. Infatti volevamo assolutamente chiederti com'è andato il presidio di ieri. È stato particolarmente bello perché eravamo una settantina di persone ed era stato chiamato in un paio d'ore, quindi insomma una buona partecipazione, sono stati fuochi, botti per circa una mezz'ora, è stato bello perché poi uno dei ragazzi che era sceso in piazza poi con noi dall'università era un ragazzo, insomma, che fino all'anno scorso stava al liceo, che faceva parte ancora di un collettivo studentesco, e quindi sono venuti in massa gli studenti di quel liceo, tra l'altro esponendo uno striscione, il ragazzo si chiama Simon, Ascata Simon, hanno fatto uno striscione, sono stati un sacco carini. Bellissimi! sì, insomma, sono venuti in un botto, si inventavano i cori, facevano, quindi insomma c'è un buon clima, penso che insomma anche ieri è stata una grossa assemblea in università per provare, anche se al nostro interno ma in maniera molto allargata, perché poi appunto siamo partiti in tanti dalla Sapienza a spiegare cosa era successo, e ci sembra, insomma, che comunque, per quanto veramente ci sia stato dello spavento in piazza, per quanti media abbiano tentato di cavalcare la giornata e di raccontarla in maniera univoca, comunque una certa, insomma, si sia respirato un qualcosa di importante nel corteo, e sia comunque una tappa da valorizzare e da guardare subito avanti. Ma infatti assolutamente ti volevo proprio fare questa domanda, nonostante purtroppo non solo i media mainstream abbiano fatto le proprie valutazioni, non si sa bene da che punto di vista, da che lato e soprattutto a che titolo, dato che chi era in piazza non sa che le cose sono andate un po' diversamente, ma soprattutto appunto ti volevo chiedere nell'immediato post possiamo leggere anche in queste manifestazioni di solidarietà, questa volontà anche di far sentire la propria presenza come un dato effettivo del fatto che i numeri che si sono visti in piazza senz'altro sono stati minori rispetto a quelli di ottobre, ma sappiamo anche che cosa vuol dire convocare un corteo in autunno e che cosa vuol dire convocarlo in primavera. Quindi possiamo leggere queste anche questo entusiasmo di cui tu parlavi come un dato reale di quello che poi di fatto va a mettere in campo questa piattaforma che ha convocato questa grande data? In qualche modo già vedendo insomma l'assemblea poi di verifica rispetto al corteo, vedere comunque facce nuove, gente nuova che magari anche fomentata dal grande evento, della grossa manifestazione che viene e insomma parte con te in corteo, e poi soprattutto in queste date in cui ci sono grossi episodi, no, anche mediatizzati o anche vissuti in prima persona dalla gente, con botte, cadute e parto, comunque c'è sempre voglia magari di, anche più di confrontarsi, di capire cosa è successo, e poi insomma c'è sempre, è un momento comunque importante perché poi insomma quelle persone scendendo in piazza con te, salendo su via Veneto a fare l'assedio, si sono prese una grossa responsabilità da cui magari non si vuole anche più tornare indietro, nel senso che magari poi da quei momenti si inizia un percorso di crescita, un percorso in cui ci si ritrova con tanti compagni e compagni dentro l'università e si prova a rifarlo, a rifare nuovi assedi e tutto, e quindi questa è sempre una possibilità insomma che noi dobbiamo penso sfruttare e valorizzare, per cui poi decidiamo anche come collettivi universitari che queste sono comunque fondamentali e che insomma le cerchiamo di riportare anche nei nostri territori. E poi insomma quello che con cui ho aperto un po' la corrispondenza e che penso sia un po' la parola d'ordine principale più diffusa nel movimento, appunto, che queste sono vengono dalle lotte dei territori, poi la capacità è di riportare nei territori quelle date e di intraprendere ancora con più forza i percorsi di lotta che abbiamo in università e altrove, e quindi poi cercare da subito di sulla scia di questo 12 di rilanciare e quindi non, cioè, penso che sia anche stupido l'atteggiamento che spesso si ha, no, di da queste giornate di tentare di puntare il dito a destra e a sinistra o comunque di non cercare di dargli forza e anche di riconoscere il valore che ha avuto, nonostante esclusivamente i limiti, che poi alcuni limiti che in piazza abbiamo un po' riscontrato tutti e anche dovuti alle forze dell'ordine, insomma, perché poi c'è da dire che la colpa non è tutta la nostra, è chiaro che uno sa chi sono le forze dell'ordine, però sabato insomma hanno provato a spaventare una piazza, penso che comunque non ci siano riusciti. Volevo pure segnalare un bel contributo scritto da un occupante di Roma in risposta a un articolo del Messaggero sul fatto che gli occupanti venivano usati come scudo, è una risposta molto spontanea di questo occupante che ha scritto appunto che non è assolutamente vero e che stavano in piazza il 12 per riprendersi la dignità. A me questo sembra appunto una frase che un po' racchiude tutto. Insomma, che poi secondo me se la vivono anche gli studenti quando sono scesi in piazza con noi, e ieri hanno avuto voglia di riconfrontarsi, e comunque speriamo di riuscire ad ampliare i nostri percorsi di lotta da queste date e di anche creare una mobilitazione forte dentro l'università verso l'11 luglio e provare anche a salire in tanti e in tante da Roma di non forte contro questo vertice, diciamo. Sì, abbiamo insomma letto l'articolo. Abbiamo letto l'articolo del Messaggero con questa retorica veramente razzista verso quella componente soprattutto migrante che insomma riempiva le file degli occupanti di casa, quindi rimandiamo anche noi all'articolo perché è davvero una bella risposta efficace. In chiusura ti chiederemo magari di rilanciare sui prossimi appuntamenti romani, se non sbaglio anche domani ci sarà un momento di solidarietà sotto il carcere in concomitanza con il momento in cui si andrà a decidere appunto della situazione dei quattro compagni, quindi magari se vuoi rilanciare prima di chiudere la corrispondenza, così insomma per chi si trovasse a Roma o nei dintorni ha possibilità di partecipare. Appunto la situazione legale è che questi quattro ragazzi sono in attesa dell'interrogatorio di garanzia che il PM comunicava, insomma, che probabilmente avverrà domani, non riuscivano a farlo oggi pure per quanti poliziotti sono fatti refertare. Si parla di 50 poliziotti che si sono fatti refertare per la giornata di sabato, e quindi insomma probabilmente domani ci sarà l'interrogatorio delle garanzie, e quindi in mattinata, sinceramente mi sfugge l'orario, però insomma in mattinata dovrebbe esserci un presidio solidale sul Lungotevere, su Regina Celi, e dall'altro lato rispetto a ieri, perché insomma speriamo con forza che li facciano uscire tutti, e quindi li aspettiamo là, insomma. E niente, domattina ci sarà questo presidio in solidarietà a Ugo, Matteo, Simone e Nico, che sono i quattro ragazzi che sono ancora a Regina Celi per la giornata del 12, e quindi insomma invitiamo tutti e tutte a partecipare. Bene Michele, grazie mille. Noi rimaniamo assolutamente con gli occhi puntati verso Roma, perché abbiamo visto anche il 12 in piazza la risposta immediata, diciamo, e determinata degli occupanti di Godot, e quindi sappiamo, come promettevano in piazza, che torneranno ad occupare, e speriamo il prima possibile, quindi continuiamo a tenerci in aggiornamento. Grazie mille, ci risentiamo e poi ci si vedrà a luglio. Ok, ciao a tutti. Ciao Michele, un saluto. Ciao. Allora, questo per iniziare a condividere un po' di ragionamenti collettivi sulla giornata del 12. Adesso facciamo un po' una pausa musicale, nel frattempo andremo anche insomma a commentare un po' delle tante voci che si sono levate dopo questa giornata, alcune che ci sentiamo di condividere, altre decisamente meno. Poi andremo a fare una corrispondenza anche con i compagni di Cosenza, per farci raccontare anche un po' lì come è andata ieri con il presidio di solidarietà, e insomma condividere anche con loro qualche ragionamento. Ecco, una nota di colore che ci leviamo subito, perché non si merita di spenderci più di due parole: immancabile la valutazione di Saviano sul 12. Dopo il 14 dicembre, in cui puntava il dito verso la piazza, oggi Saviano punta il dito verso le forze dell'ordine, ragazzi. Veramente prezioso il contributo di Roberto sul fatto che le mosche bianche vanno isolate, insomma nulla di più scontato veramente da una voce come quella del buon Saviano, ovvero un colpetto per rafforzare quella retorica che solo le forze dell'ordine di solito promulgano, ovvero delle mele marce, quella piccola, diciamo, postilla da pagare per essere ben protetti dalle forze dell'ordine. Bene, caro Roberto, noi non solo non abbiamo intenzione di pagare il prezzo dell'effetto collaterale del buon controllo, ma abbiamo proprio intenzione di sbaraccare questo tipo di forma di controllo delle piazze, ma soprattutto delle nostre vite. Abbiamo, appunto, l'abbiamo detto prima, in diretta c'è al Valentino gente che sta fermando chi prende il sole, quindi questo è un po' il livello. Caro Roberto, non ti preoccupare, puoi anche tenertele per te. Sì, tra l'altro in questi giorni invece molti siti, insomma, di movimento si stanno spendendo proprio per dimostrare il contrario, ovvero raccogliendo materiali, immagini e video per dimostrare invece che il comportamento tenuto dalle forze dell'ordine in quella piazza era assolutamente, insomma, collettivo, se così vogliamo chiamarlo, quindi insomma davvero in questo caso le immagini parlano da sé. Però sappiamo bene che i commenti di Saviano a margine di queste giornate sono sempre una certezza, quindi ci interessava dare anche questa nota di colore. Adesso vi lasciamo un po' di musica, prima vado solo a leggere un sms che era arrivato nel corso della diretta, quindi diamo con un po' di ritardo questo Cissi, che ci segnala che ci sono due volanti dei vigili urbani in piazza Vittorio, direzione Piazza Castello, per cui per chi fosse nei paraggi, occhio come sempre. Vi lasciamo un po' di musica, poi proseguiamo con la puntata. I can smell this thunder coming. I can smell this rain. to the only one I ever knew, whose arms could hold my flames without burning like their brothers burned. You told me hell's to blame. I told you hell's a choice you make. An old Blake would have said the same. Look, all day he's doing was happening, so how come I feel this presence above? This love that unplugs my heart and starts the floods again within me, drowning out the madness that I harbor. My goodness battens down the hatches and holds onto a partner. She's telling me storms coming, well of course it is. It always is on that side. Tower blocks are murmuring and I can sense a turning wind. And I glimpse a man that isn't even there. And I know that glimpse for all it's worth. Cause I'm passed out full of madness and I wake up drenched in thirst. Like, give me whiskey, give me beers, to blood, let me lose this fear. I'll love anyone who's dare enough to even look in a little bit like you. All I'm trying to say, today's like all them other days. All I'm trying to do is mark this down, make this true, make this count for something. Cause nothing is eternal, nothing means a thing. Nobody believes, that's why we live in all this sin. But we mistake it for normality, even something to attain. My descent sets me apart, but right now I smell that rain. Come to wash away these marks embedded on our weary hearts. It's merely metaphor, but metaphor is fetching Jordo. Getting ready for the fight, he came to fight with the surface girl. I lost my purpose, holding to the furnace, where the burn is near celestial. The test to put outside on, chest is full of cider, gin and lightning. My eyes will dim, but the rhymes will sing in times to come. Since I've begun, head's been filled with end. We wear too many faces, but the truth will strike again. We wake up in these many times. Don't have to direct it, life will happen. Whether you dismiss your own perspective, let me look into your eyes. See my own eyes reflected. That old shit is a paragraph. Come on, I don't like some shadows. We wake up in the end of time. Don't have to direct it, life will happen. Whether you dismiss your own perspective, I look into your eyes. See my own eyes reflected. That old shit is a paragraph. Goodbye, you got your shadow. These words are like the leaves in the bottom of the gypsy's teacup. If you look at them right, then you might see the future in them. Always knew that we were here for more than wash the dishes, do the cooking. I'm here to speak for everyone that never gets a look in. You know, the ones that ain't good looking, the ones that hate the crooked, wicked nature of this system. For everyone who knows, just cause we can't see the bars don't mean we aren't imprisoned. I believe every soul was born blessed with true wisdom, and a life is about getting back what was given before life. We are all in these disguises hidden. We sleep through life and we live in dreams, cause we can't tell the difference. That all my life people look to me around suspicion, and I got to be what I got to be. Like I'm the victim of my own condition. The meaning is the same, no matter which language speaks it. New paradigm begins as soon as you're ready to perceive it and accept your talk. Well, words that you can drown in. I'm so desperate for beauty, I'll turn to apple into mountains. I'll turn traffic into breakers. All illusion overtakes us. We need to learn to buy the hand of bullies and or rape. That will happen whether you dismiss it or mistake. spells me, let me create me. Trying to pretend that I don't care, but I do. When the heart flies on a fist storm, I'm a bitch, it's true. It's hard to resist, that's all that tears us apart. And death, so I'm asking you, hey, is it enough? Will it bring us to the end? And is it enough? Is there my cup and my defense? And my battle is empty, does my alternator kick in? Like a new friend, bringing us back to the beginning. Feeling with inspiration, a moment, and so the moment keep inside, space to grow. Multiply, let you know that you're not alone. And it's time when you call that truth about the people, not the party, let's go. Baby girl in the back, saying now we on the road. We see all stepped up, you heard it before. No bosses, no party, and now we in control. We need to reach your rate, let's go. The love we keep inside, the things to grow. The love we keep, the love we keep inside. .45 sulle libere frequenze di Radio Blackout. Ricordiamo i contatti 346-6673-263 per quanto riguarda il mobile e 011-2495-669 per quanto riguarda il fisso. Allora, prima di proseguire con la prossima diretta, spezziamo un po' andando anche a commentare un articolo che è uscito nei giorni scorsi che ci sembrava interessante, che fa un po' un focus su quelle che sono le fasce di popolazioni più sensibili all'influenza del nuovo governo Renzi a pochi, insomma, in questo periodo particolare, non tanto perché ci interessi appunto la questione elettorale in sé per sé, ma perché appunto ci sembra importante anche avere una conoscenza di quella che è la realtà che ci circonda, anche in vista appunto del vertice sull'occupazione giovanile di cui già si accennava, in cui appunto sarà necessario attrezzarsi anche di insomma di questi strumenti. Infatti questo articolo è interessante perché riprende alcuni dati di Wall Street Italia con un appunto un sondaggio che innanzitutto segnala che il tasso di astensione rilevato, cioè quello del 40%, è il più alto di sempre, rilevato a 45 giorni dall'elezione. Questo insomma conferma un po' un dato che ormai vediamo da qualche anno in aumento. Andando a vedere però poi quali sono appunto queste fasce in cui il gradimento di Renzi è più elevato, si vede che una parte della popolazione più anziana, quindi pensionati e oltre i 65 anni, e una parte invece tra quelli con licenza elementare. Il dato che invece stupisce un po' di più e che è anche poi quello che ci interessa, proprio perché Renzi fin dall'inizio si è fatto portatore un po' di questa retorica di rivolgersi proprio ai giovani, è quella della fascia tra i 18 e i 24 anni. E appunto questo articolo che potete trovare su Senza Soste, che è uscito sabato scorso, si intitola "Dove colpisce la propaganda le fasce sociali di maggior consenso verso Renzi", commenta che se appunto su altri soggetti era più scontato questo esito, differente è la questione del gruppo di età 18-24. Se almeno fino ai 18 anni la scelta elettorale tende a coincidere con quanto assunto nella dieta televisiva, si assiste, secondo diversi studi, a una repentina rimessa in discussione di questa scelta tramite i social network. Si può azzardare forse che i tweet di Renzi abbiano funzionato, oltre all'immagine originaria di giovanilismo fabbricata dalla De Filippi assieme a tutta la propaganda sulle misure del lavoro ai giovani. Non a caso basta vedere come sul sito di Repubblica, che è molto pensato per i social, anche proprio nella sua veste, l'emergenza lavoro per i giovani non solo trova molto spazio, ma è sempre stata accompagnata dall'enfatizzazione in positivo delle misure appunto per i giovani del governo Renzi. Ecco, a questo proposito, noi eravamo in piazza il 12, quindi attraversando tutte le ragioni di quella piazza, ma come universitari, universitarie, come giovani, crediamo sia molto importante prenderci carico anche della necessità di smontare questo discorso, perché è la nostra voce, diciamo, siamo quel soggetto di cui Renzi vanta la capacità di tutela, ma e quindi è proprio da noi che deve partire prima di tutto la messa in discussione di questo discorso, ovvero è importante ricordare al nostro Premier che non ci incantano minimamente le sue retoriche di presunto contrasto tra giovani e anziani, rottamatori e rottamati. Qua l'unico conflitto in atto è tra chi paga la crisi e chi non, chi ci specula e chi la subisce. Quindi noi come soggetto giovanile, che poi può voler dire tutto e niente questa categoria, anche questa è un dato da rilevare, perché il buon Renzi parla, ma di chi e cosa parla ancora non è chiaro, perché quando si dice i giovani, che cosa sembra tanto di sentire un commento da bar ai giovani d'oggi, quindi, e non tanto delle dichiarazioni sull'indicazione politica del paese. Quindi, a parte la vuotezza del livello di discorso, chi va a giocarsi come carta per il consenso questa tutela per i giovani è proprio dai giovani, che sentirà dire che noi di quel tipo di tutela là non abbiamo bisogno, perché poi di tutela non si tratta. Abbiamo visto che tra i fantasmagorici provvedimenti del Jobs Act c'è anche questo istituto garanzia per i giovani, che sarebbe una sorta di accorpamento di centri per l'impiego. Insomma, non si capisce bene che organo sia, anche perché dal 20 marzo una parte del Jobs Act è in vigore, guarda caso quella che riguarda gli ammortizzatori sociali e quella che riguarda l'estensione del contratto a termine. Quindi però per quel che riguarda le garanzie sui giovani, il famoso sussidio di disoccupazione, detto anche da noi sussidio di miseria, perché di quello poi si tratta, ecco, tutto quel barlume, anche perché poi non sussiste la realtà, però quel barlume di tutela rispetto a chi poi entra nel mondo del lavoro sembra essere sceso un po' in fondo rispetto alla scala delle priorità. Questo non ci sorprende affatto, diciamocelo, però appunto crediamo sia molto importante contrastare questa retorica del nuovo, abbiamo visto e continuiamo a ripeterlo perché crediamo che sia molto importante nel leggere anche questo passaggio di fase, il cambiamento dalla retorica dell'austerità a quella dello sviluppo, dall'emergenzialità della toppa, dei tagli, del tirare la cinghia al siamo tutti sulla stessa barca, imbocchiamo insieme il sentiero luminoso della ripresa, dello sviluppo e della flessibilità. Bene, la continuità tra i due discorsi per noi è proprio cristallina, quindi assolutamente come soggetto su cui c'è pretesa di tutela ci prendiamo la responsabilità di smontare questo discorso proprio dal nostro particolare punto di vista. E niente, comunque rimandiamo al testo completo dell'articolo che è molto appunto approfondito per insomma chi volesse leggere meglio la questione. Invitiamo ovviamente anche a continuare il dibattito in queste settimane su appunto i primi provvedimenti del governo Renzi, in particolare il piano casa, ma soprattutto il Jobs Act, proprio per smontare anche pezzo dopo pezzo le retoriche della controparte. Adesso facciamo una breve pausa musicale, lo facciamo accontentando una richiesta che ci è arrivata dal ghetto di Via Nizza, cito l'SMS, pezzo che peraltro avevo già messo in playlist, ma lo anticipiamo per il nostro racco fedele ascoltatore che approfittiamo per salutare. Buon ascolto. Yo, yo, yo, bella Ford, bella Broken Speakers, massimo rispetto. E tuo fratello Gifaltini che ti sta parlando. Ti vedo rapper di merda. Sparo dove cazzo sei? Questo è per mio fratello Luigi. Io Francesco paura. Siamo connessi in questa merda. Roma, Napoli, Varese. Dunque non ce n'è per nessuno. Tipo tua casa a mezzogiorno a Ferragosto. Se cerchi un grammo di fumo, so 10 di magnitudo. Ne troppo ancora di giuro. Tu cerchi un ginocchio nudo. Granotto, pilotto, nudo. E ti scegli di liga nulla. Incastrati tra una pagella, una punchline, la cameretta, lo studio, una faccia buffa. Perché voi siete casa igienica, ma quale predica? Mi metto nello stereo, poi chiama la guardia media. Con due riso bianco come Willy Colon. Hector Labrone, Calo Miglia, che flow. Let it be known. Ti chiedi quando questo buffone smollerà il colpo. Io sorrido che ci credo che scritti povero stronzo. Se gioco si fa sbatti, io godo niente capricci. Sto buono dal terzo giorno, Barolo dei tuoi calici. Protonio per i nemici, con micro mostro scantici. Conservo teste di babbi di nita come Pechino. Ancora in forma come Megan Fox. In discoteca intanto un Cristo nega in uno. Ho visto l'era del mio era in testa gente che boh. Non ha talento in quest'ambiente, questa gente che boh. Tutte le gente del flow, il generale maggiore della difesa. Se incontri mia madre porta lì la spesa fino a casa. Se questa merda ancora mi casa, sì che sto allerta tu non c'entri in casa. Se c'è un problema quella NASA, Apollo, vuoi scappare ritorni a casa, Apollo. Mi vedi in giro sopra un cingolato, ho rotto tutto e poi l'ho rincollato. Cingolato, sul palco ticchetto finisco spiato, fatto nei nato pure se l'incontro è truccato. Se ho i pensamenti almeno ci ho provato e da quando ho cominciato lo sai. Che spingo come un cingolato sul palco finché non finisco schiato. Quanto ne nato pure se l'incontro è truccato. Se lo ripensamenti almeno ci ho provato. E da quando ho cominciato spingo come un cingolato. Ne frega cazzi che fa rap e che te scopi cagne. Amo una donna e sopra il palco te faccio piagne. Ho sempre fatto questa roba sopra le tue spalle. Fatto grattacieli quando intorno c'era Luca Palle. E mo che vuoi che dica, che ho messo la mia vita dentro ogni singola riga. Condita dal sudore, sangue, lacrime e fatica. Purtroppo sono sordo, non sento il fischio di fine partita. Il cacacazzi del rap, se dico in faccia che fai schifo al cazzo. E se sinceri costa, quindi pago dazio. Ma lo pago contento del fatto che siamo proprio un altro mondo. Ve lo ricordo ogni volta che malzo. Fanculo al fashion rap, più che delle star, siete starlet. Sotto le canotte portate le paillette. Fare ridicolo, io più tiro di un tir. Hitler. Voi ve la tirate con più stili che altro rigono. Nessun equivoco flow, liquid tematico show. Che dopo la mia strofa chiamate un chiropratico. So di stare all'oscuro, ma è fatto nulla per moda. Voi ce l'avete duro, poi fate dei figli come strota. Quindi per te resta una banana flambé. Contro questo staff prendi più schiaffi di un giambè. Avevo l'impressione che eravate paninari. Infatti fate cose assieme a Max Sali. E ci pieghiamo ma non siamo stati mai spizzati. Ed anche i Maserati risultiamo sempre uguali. E ne usciamo da vicende anche se circondati. Perché non abbiamo impedimenti come cingolato. Sul sacco di che non finisco sfiato. Quanto ne nato pure se mi incontro il truccato. Se non ripensamenti almeno ci ho provato. E da quando ho cominciato lo sai che spingo come un cingolato. Sul sacco di che non finisco sfiato. Quanto ne nato pure se mi incontro il truccato. Se non ripensamenti almeno ci ho provato. E da quando ho cominciato spingo come un cingolato. E spingeremo sempre come dei cazzo di cingolati, ricordatevelo. Col guardone in alto pure se l'incontro è truccato. Brutto e stonato 2014. Bene, andiamo avanti e continuiamo. Continuiamo sul solco della, che la puntata ha seguito finora, ricordando che appunto guardiamo verso il vertice dell'11 luglio. Eh sì, è notizia di oggi che viene riportata da tutti i giornali locali che il caro Renzi sarà ospite all'edizione annuale del Salone del Libro di Torino, che quest'anno si terrà dall'8 al 12 maggio. Domenica 11 il Premier verrà a farci visita, quindi insomma si prospetta anche un'occasione per cominciare un po' a scaldare i motori in vista dell'11 luglio. Quindi niente, ci sembrava importante cominciare a dare la notizia. Sicuramente nelle prossime settimane anche da questi microfoni continueremo il dibattito in vista di questa data, con approfondimenti, riflessioni e anche con appunto il rilancio di appuntamenti e scadenze di lotta per avvicinarci. Ma infatti vediamo, il Salone del Libro sarà da noi attenzionato, perché abbiamo visto anche sul piano nazionale comunque che sta acquistando sempre più rilevanza quella che è la campagna contro il caro libri. Abbiamo visto che una piccola azione come può essere stata quella del terzo piano, la biblioteca autogestita, che è andata a tacciare cioè è andata a indicare e segnalare quei professori che si facevano sponda, diciamo, sulla retorica del diritto dei diritti d'autore nel costringere studenti a usare, a prendere per forza libri originali a prezzi spropositati. Bene, è bastato fare un'iniziativa in quei termini perché si ricevesse una lettera addirittura all'Associazione Nazionale degli Editori dicendo che si andava a ledere la produzione culturale, ecco, e che rivendicare la fotocopia come pratica era un furto. Giustamente chi ha messo in campo quell'iniziativa ha ribadito che il vero furto sono 80 euro per un libro, 50 euro per un libro, quelle centinaia e centinaia di euro che si aggiungono alle tasse universitarie. Abbiamo visto che anche a Roma è stata fatta l'iniziativa in quei termini, si è andati a prendere parola proprio su questo tema, interrompendo un convegno in università, che c'è questa brutta abitudine in tutte le università italiane di fare convegni che si chiamano avere 20 anni, quale futuro, che bello essere studenti, vari ed eventuali, senza mai interpellare i diretti interessati. Bene. Infatti, appunto, come dicevamo prima, la notizia della presenza di Renzi è solo un altro motivo per attenzionare questa vetrina dell'editoria e della cultura a pagamento con la C maiuscola. E tra l'altro, insomma, abbiamo visto in queste settimane che Renzi sta collezionando contestazioni più o meno ovunque si presenta. Proprio sabato, mentre il corteo a Roma muoveva i primi passi, arrivava la notizia di una contestazione a Lucca, dove il Premier era in visita. Quindi insomma ci auguriamo che anche Torino non sarà da meno nelle prossime settimane. Adesso facciamo una pausa musicale mentre prepariamo la diretta con i compagni di Cosenza. One, two, three. sembra strano che tiene vivo e sano questo ritmo metropolitano. Ogni suono che diamo resta muovendo la tua testa, evitiamo solo quelli in cui crediamo. Dietro basta, dimmi se ti basta, dimmi se ci credi in un piatto rullante in cassa, dimmi se ti passa, dimmi se è una moda oppure credi in questa cosa. La musica è la mia migliore droga e mai mi passa, sta febbre non mi passa, il rap è la mia via d'uscita, è questo che ci salva. Dimmi se ti garba, pompa sul volume, io mi suono che ti spacca, questo è il tempo del mio che sei in questo controllo. Quando i muscoli del collo, respiro la città con tutto quello che c'ho attorno. La mia autoradio prevedeva che il ritorno trasforma la normalità in silenzio, un brutto sogno. Alzo il volume a dei livelli imbarazzanti, il blaster accompagna il tracker che blocca i passanti. Il cerchio crea quella folla che riscalda il domani, apprezzano quattro quarti, win me in samadhi. Faccia bombata, cuffiette nelle orecchie alla fermata, ci credono la gioventù bruciata. Troppiamo rime che si plasmano col tempo che si affetta, giuro che poi ti faccio una cassetta, in modo che la tua radio possa assorbire ogni singolo solco, tutto quello che ho da dire. Su di una spanna, il suono originale non si affanna, si imprime su di un vetro che si affanna. Tu basta, dimmi se ti basta, dimmi se ci credi in un piatto rullante in cassa, dimmi se ti passa, dimmi se è una moda oppure credi in questa cosa. La musica è la mia migliore droga e mai mi passa, sta febbre non mi passa, il rap è la mia via d'uscita, è questo che ci salva. Dimmi se ti garba, pompa sul volume, io il suono che ti spacca, questo è il suono del mio ghetto frasca. Lo stocca, va di sciocca il nostro stereo marcio, pompiamo questo suono e lo espandiamo a lungo raggio. Sin dai giorni di maggio in cui ti senti preso meglio, rompiamo il volume anche l'inverno in mezzo al freddo. Non ho paura di restare solo e sordo, il pop è la mia tipa e più la tocco e più la invoglio. Io e la mia musica, non ci frega un cazzo di chi giudica, fanculo a sti predicatori in tunica. E la domenica mattina quando la casa è ferma, faccio vibrare il basso col vicino che bestemmia. Tutto si spegne, lo sento, scrivo in vento, e l'hip hop che sta ingoiando la mia vita dal di dentro. E sono musica, chi la crede un pericolo, ha trovato sto veicolo per rendersi ridicolo. Se guardi indietro la vita e quella gente che ho perso, un proprio a me stesso, schiaccio play, poi prova. Ok, il volume ci aiuta in sto voto strano, abbiamo perso il contatto umano, man mano che avanziamo si delinea la linea che separa l'orizzonte, l'Italia dalla Cina. E più senti sto ritmo e più vorresti evadere, credi che altrove il paradiso sia palpabile, ma il paradiso si nasconde in queste pagine. L'hip hop non a caso sta qui per colmare l'argine. Ringrazio infine chi mi ha spinto in questa cosa fondamentale, le poste la rapa dopa. 95 resta l'anno del battesimo, il suono che accompagna le mie rime ancora il medesimo. E se ce n'è di gente che considera automatico non smuovere il corpo al primo ostacolo, tracciando linee che stanno fuori dal bordo, ringrazierò chi non ha smuovato neanche al secondo. Tu basta, dimmi se ti basta, dimmi se ci credi in un piatto rullante in cassa, dimmi se ti passa, dimmi se è una moda oppure credi in questa cosa. La musica è la mia migliore droga e mai mi passa, sta febbre non mi passa, il rap è la mia via d'uscita, è questo che ci salva. Dimmi se ti garba, pompa sul volume, io mi suono che ti spacca, questo è il suono del mio ghetto basta. Allora interrompiamo un attimo la musica per darvi un'altra nota di colore, ritorniamo su quanto commentavamo prima, perché apprendiamo dalle pagine online di today.it che la gente che insomma ha fatto il giro dei social network nei giorni scorsi, perché calpestava letteralmente due ragazzi immobilizzati a terra, si è giustificando dicendo che pensava che fosse uno zaino. Vabbè, insomma, quindi credo che anche un bambino avrebbe potuto trovare una scusa più credibile, veramente. Insomma, si commenta da sé, credo, questa dichiarazione. Roberto, stai tranquillo, perché anche la storia delle mele marce non è vera, si tratta di miopia, questo è l'unico problema che attanaglia le forze dell'ordine, quindi sentiamoci tranquilli e sereni, perché bastano degli occhiali. Thank you. What are they waiting for? Food I have not a need. I can eat, I can see, 'cause I know God be watching me. And if yellow eyes that see right through, I don't know what I'm supposed to do. All these blackbirds in my garden. Oh, oh, oh, oh. Stiamo prolungando un po' l'intermezzo musicale perché purtroppo il compagno che dovevamo sentire per la diretta in questo momento ha il telefono occupato, quindi stiamo tirando un po' per le lunghe, ci scusiamo. 9 minuti di traccia non sono bastati per preparare questa diretta. Niente, speriamo di riuscire a contattarlo a brevissimo, altrimenti insomma faremo in un altro modo. Come va? Oh, bene. E sigo tutta la verità. Unlimited Struggle, Dusters, DJ Rob Wee. c'è la fila per svoltare, ma la gente sa le fare, la generazione X, ma è globale, io ti chiedo come va, anche il giorno del tuo funerale, non si capisce, la gente sta soffrisce, cercando verità nelle interviste sopra le riviste, chissà che c'è qualcosa che va storto, cerco supporto, ma corro su un binario vuoto, ehi, ascolta il richiamo, viviamo uno stato alterato, brilliamo fino a quando non perdiamo il fiato, e continuiamo a portarlo sopra la spalla, per le strade di PA, io la vivo e Star City mi parla, vogliamo fare canzoni, in cui rivivi il tuo malessere, le nostre lacrime sono le stesse, man, se fino a qui tutto bene per un cazzo, lo nascondono per bene, ma ho le forze del taglio su un astro, e se fino a qui tutto bene, e la tua vita tutto bene, lavoro e cash tutto bene, e fanno bene, o il pugno sa che non va tutto bene, e se fino a qui tutto bene, mi si è afflosciato il pene per non dar via consolazioni e patetiche scene a quel sirene, io per le mie frene, Dio sembra assordarsi che ci sono e che resisto anch'io, gente pirata collassata, se adesso chiudi un occhio mentre guidi sei un pirata della strada, prova a tirare o a farmi un buco con la spada, mia mamma scippata per una canna fanno una retata e quella storia l'ho mollata, dice che non mia madre era una roba di scopata, gli scosto la scalata, grido disoccupato, il mio tempo è lambada, muove sti culi con cravatta da faccia leccata, le gentilezze non faticano a mostrarsi, se il mio corso in questo morso non ostacola il corso degli altri, vorremmo dirti che c'è il giorno senza gloria, ma non tollero che tu intuisca il tema della storia, e se va qui tutto bene, e la tua vita tutto bene, lavoro e cash tutto bene, la fumo 20 volte a pacco, a volte piango, nascosto dentro il mio palazzo, ho 1000 amici che non fanno mai cazzi loro, ma mi amano così, io ricambio con monete d'oro, in fondo il dubbio ma lo schiaccio con la smart, lo stipendio di papà, però sto mese non mi basterà, in fondo vivo questa vita concentrata e fotto lo sclero, con questa moglie che ho comprato, raccolgo i cocci di Palermo e chi ci vaderà, mi sta guardando mentre pensa ma che c'è sta già, girare armati non risolve, non ti basterà, se chi sta bene lo fa con la squadra in Serie A, il mio quartiere mangia il pane se scelta non ha, io digerisco questi scleri per necessità, va tutto bene se piovesse come tempo fa, mentre si traggono dei fatti alla nostra realtà. E sino qui tutto bene, e la tua vita tutto bene, lavoro e cash tutto bene, e fanno bene, o il pugno sa che non va tutto bene, e sino qui tutto bene. Resto tu anche se spesso non c'è verso, questi giorni passano e disegnano il silenzio immenso, io mezzo su, mezzo immerso, perso nel vortice del tempo e del soffrire perverso, sono tu anche se spesso non c'è verso, questi giorni passano. Allora, siamo finalmente riusciti a contattare Vittorio di Cosenza, quindi tra pochissimo faremo la diretta con lui, nel frattempo visto che vi stiamo mettendo un altro pezzo di luci, ne approfittiamo per ricordarvi che il 3 maggio suonerà live alla Scatta su una ultima occasione per ascoltarsi un po' di rap all'Asca prima della chiusura della stagione, quindi segnatevi l'appuntamento in agenda. Presenterà il nuovo disco Brutto e Stonato. Decente, cerco il mio silenzio, ci ho messo pure troppo per sentirlo e per capirlo, nel posto dove per parlare strillo, se vogliono il mio sangue e la mia pace basta dirlo, la risposta vieni a prenderli e stavolta la pisciglio, l'inferno davanti respiro, qua nel vortice del tempo resto a terra legato solo da un filo, intrecciato col passato e tracciato dalla mia biro, scrivo storie con tutta l'eleganza del cortivo, resto su anche se spesso non c'è verso, questi giorni passano e disegnano un silenzio immenso, io mezzo su, mezzo immenso, perso nel vortice, nel tempo e nel soscorrere c'è verso. Su anche se spesso non c'è verso, questi giorni passano e ti segnano un silenzio immenso. Io verso su, mezzo immenso, perso nel vortice, nel tempo e nel soscorrere c'è verso. Ricordo tutta sta misantropia, non va più via, va fino alla fine dove arriva la deriva. Sto perso, e anche se a volte te ci verso, il furto è che tanto furto fermo nel mio universo. Fanculo a sta gente, una rima è per chi non va a capire, una per chi qui ancora non si sente, dice fa niente, non è vero, accendo quanto in quello schermo e non è vero, claro, piano luce vuole niente, il problema è vive in questa vita che da caccia le gengive, gira come un cacciavite in mezzo alle ferite, e tira secche con le notti pulite, mo tiro fino al filtro e penso, creo, ricompongo e rinvento un senso che mi dà un motivo per sta dove sto, fino a che non metterò che questa notte cappano. Verso su anche se spesso non c'è verso, questi giorni passano e ti segnano un silenzio immenso. Io verso su, mezzo immenso, verso nel vortice, nel tempo e del soccorrere c'è verso. Verso su anche se spesso non c'è verso, questi giorni passano e ti segnano un silenzio immenso. Io verso su, mezzo immenso, verso nel vortice, nel tempo e del soccorrere c'è verso. Verso su anche se spesso non c'è verso, questi giorni passano e ti segnano un silenzio immenso. Io mezzo su, mezzo immenso, verso nel vortice, nel tempo e del soccorrere c'è verso. Verso su anche se spesso non c'è verso, questi giorni passano e ti segnano un silenzio immenso. Io verso su, mezzo immenso, verso nel vortice, nel tempo e del soccorrere c'è verso. .22 sui 105.250 le libere frequenze di Radio Blackout. Ricordiamo ancora una volta i contatti 346-6673-263 011-2495-669. E dato che l'ora si avvicina, segnaliamo intanto un appuntamento: alle 13 al campus si terrà l'assemblea di Campus Invaders. Ricordiamo l'appuntamento della settimana scorsa, che abbiamo visto una seconda invasione dei pratini del campus. Gli invasori hanno banchettato in barba ai divieti che avevano già rimosso la settimana prima e hanno ricordato al rettore che le promesse vanno mantenute. Ricordiamo che appunto questo gruppo di studenti e studentesse che adesso si aggira per il campus col nome di Campus Invaders è partito da una petizione per tenere aperta la biblioteca 2 ore in più. Quindi partecipando a un incontro con il rettore si era ottenuta una data entro cui la biblioteca sarebbe rimasta aperta fino alle 8, perché dalle 6 alle 8 ricordiamo l'astronave campus è il deserto, e quella data è passata ed era inizio aprile. Adesso siamo in teoria al 5 maggio. Abbiamo visto appunto a inizio aprile quanto valgono le promesse del rettore, e quindi noi andremo a ricordargli sempre che le promesse vanno mantenute e continuando a creare momenti in cui ridefiniamo quel luogo in base alle nostre necessità, oggi alle 13 al campus Campus Invaders. Siamo pazzi, ci avevate ragione, ma nei nostri palazzi non c'è rassegnazione, ma la gente, ma la razza, i pazzi fanno i pazzi e non hanno via capata. Noi non ci dobbiamo preoccupare del giudizio della gente, tantomeno qua la stiamo a giudicare, a ognuno il suo mestiere, sono un depuratore, mi nutro di veleno e sopravvivo solo se lo butto fuori. I patti sono chiari, li custodisce il tempo sotto forma di canzoni, e il tempo qua è l'unica cosa che devi imparare a rispettare, se il pazzo lo puoi fare di mestiere. tempo da seguire. E quattro, gatti, non è poi così male. E quattro, salti, fuori dal reale. È quello che ci vuole per diventare padroni del tempo e poterlo cambiare. Sono cose pazze, magari scendono volontà. Pazze, prima che la gamma fa. Pazze, almeno fuori non c'è sta. Pazze, è che sta verità. Allora, 12:26 sulle libere frequenze di Blackout, ci avviamo verso gli ultimi minuti a disposizione di Parole Ribelli, lo facciamo continuando ancora con qualche commento, approfondimento sulla giornata del 12 aprile. Abbiamo a questi microfoni Vittorio da Cosenza, che innanzitutto salutiamo e ringraziamo per essere con noi. Buongiorno, buongiorno a tutti. Ecco, anche con te vorremmo appunto condividere qualche valutazione sulla giornata del 12. Avete anche scritto un comunicato nella giornata di ieri, anche perché uno dei quattro compagni arrestati, Matteo, è appunto un vostro compagno, peraltro molto giovane, che insomma ci restituisce anche un po' il profilo di quella che era la partecipazione di quella giornata. Sicuramente forte era la componente dei movimenti di lotta per la casa, però abbiamo visto anche tanti giovani e giovanissimi che hanno animato anche le parti più diciamo conflittuali della giornata. Cosa che ci viene poi confermata appunto anche dal profilo dei quattro compagni che si trovano in carcere. Quindi ti chiederei appunto di condividere con noi qualche valutazione che avete fatto nei giorni successivi al 12 aprile, magari anche di raccontarci un po' come è andato l'appuntamento che avevate lanciato per ieri pomeriggio a Cosenza, in solidarietà appunto con Matteo, ovviamente anche con gli altri tre compagni. Sì, ma partiamo dall'appuntamento di ieri pomeriggio, perché penso che sia stata una risposta ottima del territorio cosentino sull'attacco repressivo che complessivamente è stata portata alla piazza del 12. C'erano più o meno 150-200 persone che hanno fatto il presidio a piazza Prefettura, chiedendo la scarcerazione di Matteo e di tutti quanti gli altri compagni che ancora tuttora sono a carcere di Regina Coeli. Complessivamente si sono alternati numerosi interventi nel microfono da parte di chi era lì presente in piazza, da parte di quelle stesse soggettività che hanno animato la piazza del 12, perché anche a Cosenza si sono manifestati studenti, precari, occupanti di case e comitati di ambiente, comitati per la difesa territoriale. Questa è stata la composizione di quel sit-in che sta chiedendo la liberazione di Matteo, gridando a voce alta che la divisione mediatica che stanno cercando di portare avanti i media mainstream di fatto non esiste. La piazza era unica, unita nel fare quello che ha fatto, nel partire e nel ritornare a Portavia. Questa è stata l'urlo che è arrivato ieri dalla piazza di Cosenza, con una partecipazione che i compagni che stanno su questo territorio non vedevano da parecchio tempo. Quindi c'è stata una risposta immediata a quello che è stato l'attacco repressivo della piazza da parte di questo territorio. Diciamo che questo territorio non è nuovo a questo tipo di dinamiche. Nel momento in cui si verifica un attacco repressivo di qualsiasi genere, c'è una forma di ricomposizione molto forte e molto immediata, e riesce a rispondere a quelle che sono le volontà repressive. Rispetto al 12, le valutazioni che abbiamo fatto, credo innanzitutto che sta bagarre che si sta facendo sui numeri sia semplicemente ridicola. Sì, siamo assolutamente d'accordo. Sì, è semplicemente ridicola, a parte che c'erano reali 30-35 mila persone in piazza in una giornata che non sta in una composizione autunnale di lotte, senza la presenza neanche di un vertice sul territorio romano, e costruita con delle parole d'ordine ben chiare e ben precise, che erano di opposizione al governo Renzi, in particolar modo al governo Lupi. Crediamo che sia stato un successo da questo punto di vista, sia per il numero di persone che è riuscita a portare in piazza, sia per la radicalità che quella piazza è riuscita ad esprimere. Chiaramente è comodo, spesso e volentieri, analizzare i fenomeni e le situazioni dall'esterno, non sporcarci le mani, non andarci dentro e poi giudicare in una forma o in un'altra quello che avviene in una piazza. Da questo punto di vista molto spesso è qualcosa che sta più nel chiacchiericcio che nell'analisi politica, e quindi almeno noi non gli stiamo dando molto peso. D'accordissimo. Sì, ma poi insomma, per chiunque faccia movimento, sia abituato a frequentare queste piazze, sa benissimo che usare il parametro numerico come primo strumento di valutazione di una piazza sia assolutamente fuorviante e inutile, sì. Perché sicuramente in questi anni abbiamo visto manifestazioni anche molto più partecipate ma incapaci di esprimere alcunché, penso magari a scadenze dei sindacati o di cose di questo tipo, quindi mi sembra davvero una polemica che non sta tanto in piedi. Sembrerebbe quasi una tensione a un PIL dei cortei, proprio un indice veramente. Ma fondamentalmente si è abituati ad avere questo tipo di valutazione da parte di alcuni media mainstream, Repubblica, il Corriere, che utilizzano il parametro numerico come unico parametro di valutazione della composizione di piazza, cioè anche di spesso e volentieri del radicamento di quelle parole d'ordine nei territori. Chiaramente quando lo fanno soggetti di movimento risulta un pochettino più difficile anche da digerire, insomma. Per il resto complessivamente la piazza penso che sia stata, ripeto, estremamente conflittuale, con delle parole d'ordine ben precise e che abbia manifestato per l'ennesima volta la stessa composizione tutta nuova si era verificata il 19. Anche quella piazza in un modo o nell'altro è finita per non finire. Su Matteo qualche altra informazione l'abbiamo avuta grazie agli avvocati che sono riusciti a fare il primo colloquio. Dice che lui sta bene, è sereno, non attende chiaramente il fatto di essere riportato a casa il prima possibile. Matteo è un ragazzo, come avete detto, che ha 19 anni, è incensurato e speriamo che il prima possibile riusciamo ad averlo tra di noi. E non possiamo che insomma unirci a questo augurio, sia per quanto riguarda Matteo che per tutti gli altri compagni. Rimaniamo ovviamente in attesa della giornata di domani, sperando che appunto tutta la vicenda si risolva al più presto. Nel frattempo appunto è importante continuare a condividere narrazioni e valutazioni sulla giornata del 12 aprile, guardare soprattutto avanti per insomma evitare di insomma ricadere nel semplice scadenzismo, ma avere poi la capacità di riportare la potenza di queste giornate nei singoli territori. Sì, domani ci dovrebbe essere l'interrogatorio di convalida in carcere, dopodiché attenderemo ulteriori sviluppi, sperando che già domani potremo festeggiare la libertà dei compagni, insomma. Assolutamente ci uniamo a te in questa speranza e ricordiamo ancora una volta il presidio di domani. Sicuramente si faranno degli aggiornamenti alle libere frequenze di Radio Blackout, perché diciamo in quella in piazza c'eravamo tutti e tutte, quindi è assolutamente importante stringersi intorno ai nostri compagni in questo momento difficile. Sì, assolutamente complice e solidale con chi è in carcere in questo momento. Inviterei quante più persone possibili, quanti più compagni all'ascolto possibile, a inviare telegrammi ai compagni che in questo momento stanno a Regina Coeli. Sì, abbiamo già fatto lo stesso invito dando tutti i contatti del caso, quindi ribadiamo appunto l'invito a far sentire la solidarietà in questi giorni. Vittorio, noi ti ringraziamo, ci risentiremo spero presto su queste frequenze, speriamo anche con buone notizie per quanto riguarda il vostro compagno. Nel frattempo appunto ti ringraziamo per questa chiacchierata e ti auguriamo una buona giornata. Ringrazio io a voi e buona giornata a tutti. Ciao, ciao a tutti. Ciao. E allora, insomma, ancora qualche valutazione sul 12, ormai siamo in chiusura di puntata, gli ultimi 10 minuti a disposizione di Parole Ribelli, vi lasciamo ancora un po' di musica, poi come di consueto andiamo a ricordare un po' di appuntamenti della settimana. Quindi non chiedere perché tu chiama ancora odio, l'inchiesta ancora rosso, scrivo con il sangue, per odio, perché sfruttati si nasce, magari ci si diventa, però non lo si inventa. Io odio, è un fatto di appartenenza. Io odio, perché sfruttati si nasce, magari ci si diventa, però non lo si inventa. Io odio, è un fatto di appartenenza. Un altro giudice è stato ammazzato, ti sciacalli sono all'aula, non sfida lo Stato. Quella indignazione, fottuto disgusto, qualcosa di già visto e sangue di Cristo. Questa nuova ipocrisia sulle spalle della gente che lavora tutta la vita e dopo muore non sa niente, mi rischiara la mente. E sale prepotente un odio rito nel cuore, gela il sangue nelle vene il mezzo 12 dicembre. 69 allo stato delle stragi, allo stato delle trame, non ridono più tutti quei morti ammazzati dai proiettili vaganti e dagli stili infiltrati. Sono solo in una piazza circondato dalla gente, sempre dentro di me, cosa deve essere niente, non sale prepotente un assoccante rumore, sempre indistintamente sento battere il cuore, ma non sfugge il suo corpo, è sfocato il suo sorriso, che vivo nel mio cuore, ma l'hanno ucciso in questi gravi, abbastanza di galere, fritti dove sei uno di loro pure, non esisti. Io odio, perché sfruttati si nasce, magari ci si diventa, però non lo si inventa, io odio, è un fatto di appartenenza. Io odio, perché sfruttati si nasce, magari ci si diventa, però non lo si inventa. Io odio, è un fatto di appartenenza. Allora, in chiusura qualche appuntamento, partiamo da questa sera, il consueto appuntamento con la cena all'asilo occupato di via Alessandria 12, cena benefit Radio Blackout. Ai fornelli ci saranno i DJ della radio e anche in sala al bar, quindi assolutamente non si può mancare. Già, anzi, già sono ai fornelli i DJ della radio. Bene, andiamo avanti. Domani partirà ci sarà la rubrica radiofonica mezz'ora prima del blackout dalle 8 del mattino con approfondimenti e contributi a partire prima dell'inizio del palinsesto. Domani è il turno di I caduti dell'Aprile Rosso, prima parte. Segno circolare per i miei padroni, sono il prezzo da pagare, sono la garanzia che c'è la democrazia, ma vogliono che io sia nella mia bella corsia, che si prende della spia, arriva la polizia, poi mi sparano a vista, sono un potuto terrorista e la mia vita vale meno di una busta vuota trascinata dal vento in una piazza desolata. Arriviamo a giovedì 17 aprile nella Blackout House di via Cecchi 21 a Barrale, ore 20:30, proiezione Cineforum, il secondo contrasto tra Sorrentino e John Wook, anticipo svarioni audiovisivi, alle 20:30 quindi proiezione del Divo, alle 22:30 Old Boy. La Piola riprende in versione cinematografica aspettando il calore di maggio. To me, it's gonna stop when you lost what you had to laugh. You're gonna have it, you got it, so it's sad. Hey, Sergio, gotta get us out of here, it's so sad. E andiamo avanti con gli appuntamenti. Nel cortile della Cavallerizza Reale partono i venerdì della Cavallerizza, quindi anche questo venerdì ci sarà un appuntamento ancora in via di definizione. Comunque l'assemblea Cavallerizza 1445, questa realtà di cui abbiamo già parlato, che ha a cuore le sorti della Cavallerizza nello specifico, ma si rifà alla domanda che anche diciamo tutti gli altri pezzi in lotta sul territorio pongono, ovvero chi decide su le nostre risorse e il nostro territorio, continuano a far vivere in dei momenti ad hoc questo splendido posto, quindi alle 21 nel cortile della Cavallerizza Reale. E sempre venerdì 18 per quanto riguarda Radio Blackout, appuntamento con una presentazione del libro. Questa settimana è il turno di Porno Terrorismo, che verrà presentato nella sua edizione italiana che è appena uscita, assieme all'autrice Diana Torres. Per maggiori informazioni rimandiamo, oltre che al sito di Radio Blackout, al blog sguardisuigeneris.blogspot.com, dove potete trovare appunto informazioni su non solo sul libro, sull'autrice, ma anche sulle altre date del tour, insomma un po' di informazioni utili. E a questo proposito, diciamo, l'appuntamento con Diana si articola su due giorni. Ricordiamo che sta facendo un giro di tutto il paese con questo nuovo libro e le sue performance. Quindi sabato 19 aprile, ore 15, al Circolo Moris, in via Stampatori, workshop su eiaculazione femminile a cura di Diana, diviso in teorico e pratico più aperitivo, e alle ore 22 al CSA Gabrio in via Miglio, performance porno terrorista, e a seguire DJ set. Rimandiamo ancora, come diceva Francesca, per approfondimenti al blog di Sguardi sui Generis, e volendo ci vediamo lì. E ci siamo dimenticate un pezzo: anche venerdì, dopo la presentazione del libro, si balla nei locali di Via Cecchi. I DJ della radio saranno qui a tenervi compagnia dopo la presentazione, quindi non mancate, che si balla tutta la notte. Quindi niente, rilanciamo ancora l'appuntamento, poi dopo magari mandiamo il fantastico spottino che è stato registrato nei giorni scorsi. Nothing to say, wake up, no cops, you fuck up your makeup, then if you do, you won't get laid, you won't make money, no, you won't get paid, and E ricordiamo che oggi è il terzo martedì del mese, anzi ci ricordano che oggi è il terzo martedì del mese, a proposito di diritto all'abitare, e ci chiedono notizie sull'andamento di eventuali sfratti. Noi non ne sappiamo niente perché siamo chiuse nella Blackout House da stamattina. Chiunque abbia notizie è invitatissimo a fornirne, e verranno poi diffuse dalle libere frequenze di Radio Blackout. Sì, non mi pare che anche durante l'informazione siano state date notizie in questo senso, quindi credo e spero che per ora la situazione sia tranquilla. So che c'è stato invece uno sfratto che è stato eseguito ieri mattina, ma non so molto di più. Comunque, appunto, se ci fossero notizie, invitiamo i nostri sempre attenti ascoltatori a segnalarle, a diffonderle tramite questi microfoni. Bene, Parole Ribelli volge al termine, si leva per lasciare spazio alla puntualissima informazione di Blackout. Come sempre siamo in onda ogni martedì dalle 10.40 alle 12.40, e ciao a tutti e tutte da Eddie. E un saluto anche da Francesca. Non abbandonate le libere frequenze di Radio Blackout. Qui dietro di noi il GR che fa pressione per prendere possesso dei microfoni. A seguire Cattivi Pensieri. Buon ascolto e buona giornata.